24 mattino. Luigino Di Maio fino a 3 anni fa non aveva neanche la denuncia dei redditi, guadagnava zero perché non lavorava. Adesso ha un ottimo stipendio. Non avevano sparato a zero contro quelli che vivevano di politica. E tu di che vivi? Luigino Di Maio il Chierichetto, Fico il Moscio ovviamente, e l'emergente Di Battista detto Dibba, il Gallo Cedrone. Diciamo, ognuno ha trovato adesso il suo ruolo in commedia. Gli Absolute Beginners di David Bowie per raccontare le notizie del giorno, la discesa in campo di Di Maio anche attraverso la satira del governatore De Luca, che però abbiamo spazzolato qualche giorno fa per il suo incidente. Allora, buongiorno, è giunto il momento dei cani e dei gatti. Buongiorno al gattone Oscar Giannino. Che orrore, buongiorno, che orrore queste parole di De Luca, che orrore, un orrore allo stato non puro. Non ti piacciono? No, a me fa orrore questa sua metodologia che considero squadristica di rivolgersi agli avversari politici. Dici che è un po' killer? Dico che ieri è stato costretto ad azzerare lo stipendio al suo capo di gabinetto, Alfieri, che aveva tanto lodato come l'uomo che organizza clientelismo come Cristo comanda. E la nomina era illegittima, caro De Luca. Quindi, a proposito di stipendi, hai dovuto levare lo stipendio al tuo capo di gabinetto. Mai nominare in nome di Dio in vano, De Luca. E soprattutto, avranno tutti i difetti che dici tu, i tuoi avversari politici, ma falli notare a noi, ai cittadini, tu pensa ai tuoi, che ne hai abbastanza di difetti. Allora, perla della rassegna stampa che ho ottenuto per te. Conosci il significato di queste parole? È un test che vale anche per i nostri ascoltatori, che ora possono chiamare all'800240024 o scrivere al 349-238-6666. Microondabile, frienzonare, impanicarsi, gnucco, piacionismo, sgarzulino, fisicato e addirittura sono le nuove parole del devoto Oli. Ma no, adesso voglio sapere se conosci il significato di questa. Sapio sessuale. Lo sai, no? No, non lo so. Come non sai cosa significa ciò che riguarda il sesso? Io vi prendo tutto ciò che c'è da sapere dalla trasmissione di Cruciani più tardi. Ma Oscar, sapio sessuale, lo sanno tutti. Io no, perché Cruciani non me l'ha ancora spiegato, quindi... Allora, sapio sessuale non ha niente a che vedere con la zanzara e con Cruciani, ma vuol dire innamorarsi di una persona molto colta. È un termine, diciamo, di uso corrente. Sicuramente lo sapeva Emiliano Fittipaldi. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, in ultrasintasi devi spiegare a me, a Oscar, se veramente siamo di fronte a uno scoop così clamoroso, cioè se questa lettera sepolta nella cassaforte di cui parli nel tuo pezzo d'inchiesta su Repubblica contiene il segreto sulla vita di Emanuele Orlandi. No, il mistero resta aperto, ahimè, altrimenti... Altrimenti, insomma, sarei molto più contento e molto meno dubbioso rispetto a quando ho studiato questo documento. Questo è un documento, è un resoconto, a voler apparire un resoconto economico, firmato, almeno l'estensore, così si firma, Lorenzo Antonetti, che era il presidente dell'APSA dal 1995 al 1998. È un resoconto economico che sintetizzerebbe una serie di spese. Le note a spesa. Avrebbe effettuato per l'allontanamento domiciliare di Emanuele Orlandi, che sarebbe avvenuto dal 1983 fino al 1993. Ma molti ci chiedono come si fa, perché, che cosa dice di questo documento che si tratti proprio di lei? Il TIF parla dell'allontanamento domiciliare di Emanuele Orlandi, cioè il frontespizio, che è la prima pagina in cui Antonetti spiegherebbe ai destinatari che sarebbero due allora vescovi, oggi cardinale, il cardinale Re e il cardinale Turan. Ovviamente ho chiamato il cardinale Re, che nega di aver avuto una lettera di questo tipo, in cui spiega questa missiva sarebbe una sintesi delle spese che poi sarebbero allegate in originale in 197 pagine tra fatture, quietanze di pagamento e spese varie, seguendo il filo di la cosa voci, più chiara, perché lo riproduce in anastatica, è proprio questa intestazione indirizzata a questi due cardinali, Tauran sì, e ma Re. Bisogna vedere se questo stranissimo documento, che sicuramente era conservato all'interno di una cassaforte del Vaticano, questa è l'unica cosa certa di questa vicenda, sia un documento verosimile, veritiero, o sia un apocrifo o un falso totale che serve non tanto a svelare il mistero di Emanuela Orlandi, ma a creare nuovi veleni e nuovi misteri. Allora, ti ringraziamo anche per questo tuo contributo di chiarezza. Il tuo libro, Gli Impostori, quando esce? Aia, proprio in questo momento abbiamo avuto il blackout. Oscar, ti ha incuriosito questo giallo? Sì, mi ha incuriosito. Noto che, insomma, in apparenza, almeno alla prima lettura, le rilevazioni di incongruenze sono abbastanza fondate, a mio giudizio. Naturalmente vedremo, io tendo a separare il dolore che continuano a infliggere a quella famiglia, alle motivazioni interne, a una cerchia evidentemente, magari di sottoposti vaticani di quart'ordine, come tutto il sapore del processo che ha visto alcuni protagonisti di quart'ordine, che magari si sono costruite vite e carriere con questi ricattucci. Allora, io sono di questa opinione qua, molto più probabile questo strumento di ricatto. Ascoltatore, fra l'altro molti messaggi esultano per la tua invettiva su De Luca, grande Giannino, e abbiamo Giovanni da Matera che vuole intervenire sul caso Di Maio, la notizia del giorno. Giovanni? Pronto? Sì. Buongiorno, volevo chiarificare alcune cose su Di Maio. Praticamente, qual è lo scandalo che viaggia da solo? Ormai era stato già tutto molto molto definito dal web. Questi del PD o altri arrivano sempre molto molto in ritardo. Perché uno si doveva mettere contro Di Maio quando lui ha preso già migliaia e migliaia di voti sul web? Cioè, ora è tutto cambiato, questi ancora non si rendono conto. Va bene. Perché muovere nelle piazze un sacco di cose? È già tutto definito. Il ragazzo è per bene, tutto perfetto, tutto lo voteranno, è finita la storia. Sei un elettore grillino, no? Guardi, io ero un elettore di tutt'altro, però... Che cosa votavi prima? Senti, io il problema sai qual è stato? Che nelle nostre famiglie, penso nelle famiglie di tutti gli italiani, di tutti gli italiani, la maggior parte... C'era una lotta fratricida tra... Ma tu cosa votavi? Cosa votavi? Io ho sempre quasi votato centrodestra. Ah, e diciamo, ora? Diciamo Berlusconi, va. E mi sono litigato con i miei familiari che votavano PD. Ma nella realtà miravano tutta la stessa parte. Un grande ritratto di interno familiare. Allora, grazie, ora sostieni Di Maio e ovviamente voglio litigare con Oscar su una sentenza, l'hai letta, del Tribunale di Milano. Secondo il Tribunale di Milano, la madre separata con figli può trasferirsi in un'altra città senza dire niente al marito, senza consultarlo. E il Tribunale ha proprio ratificato un episodio di questo tipo. Sei d'accordo? Io no. Beh, devo dire la verità, ha preso atto di come funziona la vita. Scusa, ah, tu non sarai d'accordo, ecco, come sei cinico. No, come sei cinico Oscar. No, non sono cinico, voglio dire, vivo nel mondo reale, quindi il mondo reale è fatto di cose in cui si riscontra, e come quando c'è un po' di polemica nella famiglia, anche cose di questo genere qua. Io non credo che si riconoscano sentenze alla mano, questa è la mia modesta esperienza. Le sentenze servono a riconoscere i diritti delle parti deboli, cioè dei figli e così via. Quando i coniugi sono in guerra, neanche il padre eterno, figuriamoci se le leggi della ridicola Repubblica Italiana riescono a... Quindi io sono, come vedi, non scettico, disincantato, perché la capacità umana di non comprendersi quando i rapporti, per così dire, degenerano, e hai voglia a sentenze. Figurati se il problema è vero e spostarsi senza informare, ci si fa dei danni molto più gravi. Lo so, ti sembra disincanto, credo che sia più vicino alla condizione umana di quanto non sia l'eredità di quella sentenza, che poi è discutibile, sono d'accordo. Allora, a Racale, in provincia di Lecce, un supermercato ha appeso questo cartello, leggo Filippo Facci sul Libero: per garantire un livello di sicurezza adeguato consigliamo di non elemosimare alle persone che sostano fuori dal punto vendita. È esplosa la polemica, Facci è dalla parte di chi ha fatto quel cartello. Tu? Io? No. Io nemmeno in questo caso. Ah, io nemmeno. E a proposito di elemosinare e di rapine, lasciami dire, insomma, io capisco il gusto per informazione leggera eccetera, però scusami, io vado un pochino su una cosa che mi allarmano più seriamente del cartello al supermercato, perché noi viviamo di alto e di basso, dobbiamo saperlo alternare. Pensa a questa ipotesi che è uscita ieri a Milano in un incontro col procuratore della Repubblica Ladra Francesco Greco, che insieme a Mariana Boschi ha rilanciato l'idea di una cosa che è già 3 anni che ogni volta riemerge, la legge di bilancio, e non passa. Vediamo se riescono a farla passare anche questa volta, questa grande rapina di Stato. Sulla presunzione che lo Stato e i magistrati come Francesco Greco hanno che i contanti siano illeciti dei cittadini italiani, dicono: vi facciamo emergere il contante sulla base di una presunzione allo Stato puro. Cioè non è che dicono Giannino è un ladro, hai tanti contanti nella cassetta di sicurezza, sono illeciti, allora li fai emergere, ti obblighiamo a comprare titoli di Stato, ma senza interesse. Bello, perché gli interessi li prendiamo noi per le finalità sociali che decidiamo noi, cioè la presunzione dell'inquisizione legata al furto espropriativo. Tu capisci che viviamo questo viene da un procuratore, dai lavori forzati, da un procuratore della Repubblica forzati. Ma non è male, però, ma che ci fanno tutti questi soldi in cassaforte? Siamo nel terzo millennio, in quanti capitali inquisizione parliamo? Ed espropriazione, ma non sono i soldi delle spesucce, Oscar, sono milioni di euro, e quindi sono illeciti, e quindi sono illeciti, ma un milione li espropriamo. Di euro, sì, ma e tu Corona sei matto. È finito in carcere, ma per allora questo. È vero che fa proseliti l'inquisizione espropriatrice. Se è un milione di euro, chi è che ha un milione di euro in spesuccine? Guarda, dai, io in di sicuro no, però e allora vogliamo e allora illecito quello, e allora illecito euro, se ma e allora illecito se un imprenditore materasso, ha dei contanti in cassetta di sicurezza, ma secondo quanti te? Quanti c'è una soglia, un c'è milione la soglia di euro, oltre no. La quale sei un delinquente presuntivo. Perché questa hai un milione di euro in contanti? Questa cioè, è la Capone, sete guarda. Dello Stato ladro. Questa Stato è. Ladro, Stato ladro, è la sete, ladro, è ladro perché, ripeto, inquisizione più espropriazione. Guardatevi, cari ascoltatori, da chi ride di queste cose. Stato ladro. State ascoltando un programma offerto da Centro Software, l'ERP italiano già pronto per Industry 4.0. Mattino. Rieccoci in diretta. E lo stupro di Roma, un altro pugno nello stomaco, incredibile, la donna legata e abusata da un ragazzo di 20 anni, ancora deve essere trovato, arrestato, speriamo che accada presto. Ma esplode una grande polemica che riguarda questa frase del senatore D'Anna che parla delle donne e del rischio che siano aggredite. Ma guardate come, sentite come. Io non sto giustificando in questa legge, certo, certo. Gli darei 30 anni di carcere, insomma, tanto per capirsi, ma un minimo di attenzione e di cautela, perché se cammina una bella ragazza, probabilmente vestita anche in maniera provocante, e si trova in determinati ambienti, oggettivamente si espone. Allora il mio invito è alla cautela. Voglio dire, il corpo della donna è uno, è oggetto e fonte di desiderio da parte dell'uomo, no? È un istinto, sarà primordiale, sarà ancestrale, sarà quello che vuole lei. Senatore D'Anna, queste sue dichiarazioni a Unicusano hanno creato un putiferio, sono finite sui giornali. Oggi vuole rettificare o va bene così? Buongiorno. Guardi, tutto al più bisogna chiarire, non bisogna rettificare, perché riascoltandole anche adesso sono rispettose delle donne, condannano senza mezzi termini gli stupratori e invitano ad un diciamo banalissimo sentimento di prudenza e di diciamo di cautela in una società dove la violenza, e quello che è successo ieri sera a Roma lo conferma, non consente di declinare una libertà diciamo senza responsabilità. Aia. Aia, ma vede, io leggo proprio dalla doppia pagina del Messaggero di oggi, sì. Orrore a Roma legato e stuprato a Villa Borghese, ma sì. Questa donna non era vestita, no, era una donna tedesca senza fissa dimora. Ma l'esempio del vestire non era determinante, era un modo di dire. Io ho detto vestite in un determinato modo alle 3 di notte in un quartiere, non era il caso, da sola si espone al rischio di un'aggressione. Ma perché lo dice? Non era il caso dell'americana? Non era il caso? Sono sempre persone erudite, persone educate, persone civilizzate. Certo. Quando tu hai un disturbato mentale, hai un drogato, hai un alcolizzato, hai qualcuno che ha dei problemi di violenza nel contesto in cui è vissuto e in cui vive, è chiaro che quei freni inibitori che una persona istruita, che una persona civilizzata tiene a bada rispetto ai bassi istinti dei quali comunque siamo fatti, per un fatto non fosse altro biologico, è chiaro che questa persona tutto è tranne che una persona civile, che una persona, allora, la fermo, che chiarissimo, rispetta le donne. La fermo solo un attimo perché una biologa di Napoli, Chiara Zanichelli, è qui collegata con noi, ha scritto un appello, io non ci sto, addirittura contro la candidatura sua del senatore Danna all'ordine dei biologi. Noi siamo in campagna elettorale all'ordine dei biologi, evidentemente. Pure lì. Questi sono candidato. E sentiamo le sue ragioni, magari si dà la sua, senatore, sentiamo cosa dice dei biologi. È stato commissariato due volte per brogli, ma non entriamo nei biologi. Sono spariti dalla cassa di un defunto presidente 4 milioni di euro. Va bene, ma non riguarda questo. Vediamo cosa dice la biologa Zanichelli e poi le risponderà. Pronto, signora Chiara, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno. Ma lei non c'entra niente, immagino, con i problemi dell'ordine biologico. Perché pensa che siano gravi le dichiarazioni del senatore Danna? Io penso che siano gravi, diciamo, le dichiarazioni del senatore, prima di tutto come donna, come mamma e come ovviamente professionista biologa iscritta a un ordine professionale che per essere rappresentativa deve ovviamente essere, diciamo, rappresentata in maniera dignitosa da un presidente, ma prima ancora da un'istituzione. E quindi noi biologhe rappresentiamo, biologhe donne, il 70% su 50.000. E non volete il senatore Danna. Vogliamo. La fermo solo un attimo perché Oscar, voglio sentire Oscar al volo, poi dopo do la parola a entrambi. Non considero questa obiezione una pagliacciata, considero nella descrizione che ho sentito prima anche la conferma, per me, parlo a titolo individuale, senza nessuna pretesa, se non delle mie idee. Io non considero accettabile l'idea che una persona, ho sentito, erudita, tiene a bada i suoi istinti. Beh, insomma, diciamo, da quando siamo scesi dagli alberi non è solo l'amigdala quella che determina le nostre reazioni, abbiamo sviluppato la corteccia frontale, pretendo che un biologo lo sappia, perché se senza erudizione non si tengono a bada alle 3 di notte gli istinti ancestrali, ecco, io un presidente così non lo voterei mai, mai e poi mai. Senatore Danna. La democrazia è fatta anche di delle diverse opinioni. Pronto? Sì, prego, continui. La democrazia è fatta anche delle diverse opinioni. Quando sia strumentale questa posizione rispetto al rinnovo degli organi dell'ordine dei biologi, io sono un direttore di laboratorio, sono uno specialista in microbiologia, insomma sono uno che ha un cursus honorum rispetto a queste piccole pagliacciate. Ma nessuno dei casi di cui parliamo però c'era l'abito di scinto. Una vulgare provocazione elettorale. Ma io le chiedo, lasci perdere la provocazione, nessuno dei casi di cui parliamo in questi giorni, dalle americane, nessuno aveva la minigonna, diciamo il cult, era senza reggiseno, una era una barbona, perché? Sul vestito, perché mi vuole impiccare ad una parola? Il concetto che io ho espresso è un invito alla cautela. Bene. È un è un invito al buon senso. Le faccio un altro esempio, no? Lei la sera chiude la porta a chiave quando si ritira. Sì. Bravo. Lei come cittadino ha diritto, ha il diritto costituzionale a vedere tutelata la sua proprietà, non essere derubato. Ma cosa c'entra? A Milano era un ottantenne. A Milano. Il ragionamento, lasci perdere. Dopo vogliamo ragionare, o lei vuol fare clamore e lo spettacolo anche lei? Se vuol ragionare, io ragiono con lei e chiarisco ai radioascoltatori. Se lei vuol impiccarmi ad una parola che non ha nulla a che vedere col concetto che io ho espresso, allora un altro paio di maniche. Lei la sera la chiude la porta chiave. Sì, la chiude, allora? E la chiude per un principio di cosa? Per un principio di prudenza, perché in giro ci sono i ladri. Anche se lei ha il diritto costituzionale alla tutela della sua proprietà, lei ha il buon senso e la cautela di chiudere a quattro mani. L'esempio non mi convince molto. Siamo... Oscar, tiene l'esempio con la chiusura perché, chiave. Questo si chiama il campo per l'aria, quando uno dice tenere a bada gli istinti ancestrali, se non è erudito non li tiene, punto. Poi possiamo fare tutti gli esempi che vogliamo, però poi non facciamo di questa storia del Santo Radano adesso chissà che cosa, quindi direi che... Bene, poi... allora chiudiamo con la Zanichelli, il suo appello ha raccolto molte adesioni? Sì, abbiamo raccolto molte adesioni e le assicuro che non è affatto un mezzo per strumentalizzare una situazione, ma semplicemente comunicare quello che noi donne... Quindi lei non è che sostiene un altro candidato? Ma non è assolutamente questo. Ci faccia capire, lei non sostiene un altro candidato, non ha interessi elettorali nella contesa. Io non ho interessi elettorali e sicuramente quello che mi sta a cuore, le ripeto, è la tutela delle donne e soprattutto della professione che io rappresento. Chiarissimo. Danna verrà eletto lo stesso? Scommetterebbe che verrà eletto lo stesso? Danna? Prego. Senatore Danna, lei verrà eletto lo stesso malgrado questa polemica? Ma credo, non credo che i biologi si facciano fuorviare da questo che puzza di strumentalizzazione. Va bene, allora la richiameremo e vedremo. Grazie. Oscar, le divise, hai visto che è arrivata l'ordinanza antipizzo, l'ordinanza anticanozza, canotta e l'ordinanza anti-infradito. E qualcuno dice in Forza Italia, ma mettiamo le divise, secondo me a te sta cosa piace. No, è che ti sbagli, perché... Ma come? Tu sei un patito di divise. Ma non sono il patito delle divise in termini coattivi. Noi, gli anarchici libertari, a voi di sinistra collettivisti, non vi entra in testa. È dai tempi della guerra di Spagna che fate fuori gli anarchici libertari. Ma tu sei impazzito e sto chiedendo un'opinione sulla giacca a scuola. E mi dici, ti piacciono le divise? E io ti replico, tu che hai la presunzione che se ho soldi in tasca sono illeciti, come vedi tu risponde. No, se hai un milione di euro nella divisa sei illecito, ma un altro discorso. Vabbè, comunque. Quindi siamo d'accordo, no le divise. Allora, però la differenza è, divisa è un conto, è infradito... Lì che cos'è? Ho detto che a un certo punto si parla dei pizzi. Il ecco, pizzo che i pizzi esce ci riportano dal pantalone. A Danna, capisci? Perché altrimenti i maschietti... Ecco, è vero, gli istinti ancestrali degli adolescenti. E niente, ci può fare. Torniamo sugli alberi. Perché ma come vanno vestiti secondo te? Perché io mi sto cercando di figurarmi questo studente tipo che ha il pizzo che esce dalla mutanda, la canotta trasparente e l'infradito. Capito. Poi l'infradito proprio è una battaglia culturale. Io sono contro l'infradito. Più che contro gli istinti, ma no, ma è anche poco pratico. Sono presente d'accordo. Quando l'infradito si strappa e tu vai in giro col moncherino e vedi questi sciancati da ciabatta rovinata. Che orrore, ragazzi! Che orrore. Senti, proponimi tu nella rassegna stampa, che ti voglio dare una possibilità. Stampa, hai aderito alla linea. Ieri c'era una vocina che a tutti i direttori di giornali, in maniera cinica e con qualche soddisfazione, diceva: ma li vedete questi di Ryanair? Ma ve ne volete occupare? Ma volete capire che questi vogliono prendersi la nostra grande Alitalia e non pagano i loro piloti? E infatti sui giornali di oggi è tutto un profluvio di indulgenza. No, però io sono sulla linea Barisoni. Questi manco ti rimborsano tutto il biglietto. Cioè le tasse aeroportuali di 200.000 persone non te le rimborsano. Adesso mi fai l'elogio di Olliri. Io ti faccio l'elogio tutta la vita di Ryanair e di tutte le low cost. No, grazie, ma ho capito che non rimborsano. Cancellano 200. Ma scusa, rispondimi su questo. Ho capito che c'è un milione di euro in tasca. Come Barisoni, voi l'obiezione non la volete sentire. No, ma ho capito. Ma se hai speso il biglietto e ti lasciano a terra, Oscar, te lo devono restituire questo biglietto, non una parte. Senti, o no? Senti, oggi tutti i giornali italiani descrivono il fatto che i piloti di Ryanair vanno in compagnia dove vengono pagati di più. E io pago. E tu paghi. Vabbè, d'accordo. E allora becchiamoci le compagnie full service che falliscono di Alitalia. Ma visto che non volete stare Oscar, ma voglio vedere quanto eri furibondo tu se stavi su un volo per Dublino o per Dubai e non te lo rimborsano tutto e te lo devi ricomprare. Scusa, ma che ragionamento è? Il ragionamento è che sui giornali italiani oggi si dice che il modello di Ryanair è completamente non percorribile, quando hanno 107 milioni di passeggeri, tre quarti dei quali non avrebbero mai volato senza quel tipo di modello. Allora, il mondo reale, o noi lo guardiamo raccontando le cose che non vanno, ma anche quelle che vanno, o altrimenti state difendendo le compagnie full service fallite, no, come l'Alitalia. Io amo, non la difendo. Io amo Ryanair. Però domanda che mi faccio è: se avessi comprato un biglietto e poi sentissi questa meravigliosa frase di O'Leary, e te la sto citando dal pezzo di Savelli, penseresti sul Corriere giustamente della Sera, e io in questo la ma penso non c'è come nessun te, problema. Abbiamo avuto solo una difficoltà nelle pianificazioni delle ferie dei piloti a settembre-ottobre. Difficoltà nella pianificazione oggi, delle ferie. Lasci col culo per italiana, terra, no? Oggi in tutta la stampa italiana non c'è la difesa del diritto del consumatore. Linea Barisoni, cioè compagnie di Stato pagate da me sottomettiti e dai contribuenti. Mai, capite? Mai, sono già fallite troppe volte. Poi nella radio degli imprenditori bisogna fare gli statalisti, ma roba da batti. Oramai è proprio qua. Siamo allora, alla tu non meresina. Sei neanche d'accordo col Sole oggi. Dillo, capita che non sul sono rischio tedesco. Come no? No, dillo. Sul debito, sei in filo tedesco e austriacante. Non sono d'accordo, come diceva Togliatti di fronte di Gasperi, al titolo del Sole che dice la linea tedesca è riconsegnare ai mercati giudizio sul debito pubblico, la mia risposta è magari, certo, perché è bancarotta, è perché voi volete fare invece i debiti a spese mie, ma però quale? Avere ma la banca centrale che vi sostiene è una questione di civiltà. È una questione di scelta. Chi la pensa, cioè, come a difesa dello Stato al darwinismo dei mercati, così al giudizio del mercato, il nostro spread, così e ci fanno il prezzo del rischio del tuo debito. I mercati esistono per fare il rischio, il prezzo del tuo rischio. Ma che mi fai l'elogio del mercato, assolutamente con la finanza sì. Che specula solo sui chi fa bot, debito alle mie spalle pretende di non avere un prezzo al rischio a cui ma mi espone. Ma che ti è successo? Io la penso sempre così, da sempre, da una vita che la penso così. E non ridere se mentre poi lo gli dici. Statalisti di destra e di sinistra prevalgono nella mia professione come dovunque, ne prendo atto, ma non cambio certo idea. Luigi da Cesena. Sì, pronto, buongiorno. Sì. Buongiorno, volevo un attimo intervenire sull'ennesima uscita fuori luogo di Greco, che ormai ci ha abituato a queste cose, sull'uso del denaro contante. Intanto bisogna precisare che la moneta stampata dall'istituto di missione dall'istituto poligrafico a corso legale, quindi già, deve essere assolutamente utilizzata ed accettata da tutti. Poi signori, io faccio il commercialista, vi siete dimenticati di una cosa importante: la crisi bancaria di questi anni e l'incertezza sulla sicurezza dei depositi ha spinto moltissima gente a andare a ritirare i soldi, esatto, e a tesaurizzare. Ha perfettamente ragione. Mettersi nella cassetta, ho di capito, sicurezza. Un milione di euro. Ma io guardi, quando parlo di una norma non vado a misurarlo sulla quantificazione dell'importo. Il concetto è che il pensionato che trova un rendimento negativo nei bot e che non ha più fiducia della sua banca di credito cooperativo e si mette 50.000 euro nella cassetta di sicurezza, secondo il procuratore greco diventa un evasore fiscale. Ma stiamo scherzando? Esatto. No, no, non si parlava di 50.000 euro, si parla di grandi importi, di su cui c'è... Esatto, ma chi lo stabilisce l'importo? Ma come importo vogliamo grande parlare? Io ho lecitamente investito le mie cose, ho venduto un immobile, ho preso 3 milioni di euro. 100.000 euro, e li metti nel materasso. No, 100.000 euro cos'è? Un milione di euro, parla. Io in banca non glieli voglio mettere, perché in banca non mi sento... l'atto, perché la difesa del depositante arriva al massimo 100.000 euro e li tengo in contanti. Se vogliamo parlare di banconote, parliamo delle banconote false, non delle banconote vere. Bravo, bravo, bravo. Le banconote vere io ne faccio l'uso che voglio, signori miei. Oh. Poi se non siamo capaci di fare la lotta all'evasione, impariamo a fare la lotta all'evasione, ma non per questo facciamo l'ennesima caccia alle streghe. Bene. Se mi consentite uno che è d'accordo con Oscar, così almeno Ryanair. No, ma adesso sono contro Oscar. Oh, perché Ryanair, voi parlate di due cose diverse. Sulla libertà di mercato, di concorrenza, d'accordissimo. Ma Ryanair è la schifezza delle compagnie low cost, perché se in Italia esistesse un'effettiva difesa del consumatore, Ryanair sarebbe stata soggetta a dei provvedimenti sanzionatori pazzeschi, perché Ryanair non ha alcuna difesa di quei milioni di passeggeri che imbarca. E perché ci andrebbero secondo lei allora? No, ma ci vanno perché chiaramente lei compra un biglietto e si aspetta di avere un servizio in corrispettivo dalla compagnia, ma questo lei ha dei diritti inviolabili che Ryanair, sul quale Ryanair tutti i giorni costantemente li calpesta. In Italia non abbiamo alcuna difesa dei consumatori fatta in modo serio, eccetera, come lo sappiamo bene, lo vediamo in ogni momento, per cui Ryanair se ne frega, se ne fotte. Luigi li tratta allo stesso modo in tutta Europa. E da vent'anni il mercato cresce in tutta Europa di Ryanair. 349-238-6666 800-24-0024. Prego Oscar. Non tocca a me difenderla, perché è evidente che ci sono molte lacune. Però la storia che solo in Italia ci infligge questi trattamenti non è vera. E il problema è che ha continuato a crescere, malgrado limitazioni sempre più elevate, malgrado il fatto che possa dar fastidio all'insistenza nella vendita, eccetera, malgrado una busta paga su cui c'è molto da discutere, tantissimo, però nessuno obbliga la gente ad andare a lavorare lì. Però, ripeto, lei e quel modello di volo hanno creato il mercato aggiuntivo per centinaia di milioni di passeggeri che non volavano con le full service a costo alto, che rimpiangano gli statalisti rubasoldi di noi poveri contribuenti. Allora, un ascoltatore ci chiede, ma il tacco 12 evocato dal pezzo di Repubblica delle donne che erano intorno al cavaliere è maschilismo? Oscar. Non so, date una risposta. Non sono proprio temi di cui non me ne può fregare di me. Tacco 12, 10, importanti. 9, 8. Cioè, il giornalismo politico dovrebbe non occuparsi di questo. E se le parlamentari ritengono di doversene occupare dicendo se noi abbiamo il tacco 12 è un minor problema che succederà alla Boschi, anche loro si facessero un esame di coscienza. Cioè, non mi sembrano proprio i temi. Poi dici tu, ho capito, ma non fare lo schifiltoso, il colore è una cosa fondamentale della politica. Sì, ma solo in Italia è la politica il colore. Cioè, viva la Germania, che infatti gli italiani non capiscono, perché e sceglie la Merkel fondo di Polito, senza questa è la colore. Ecco. Polito, io, per esempio, scrive un fondo sul Corriere dicendo in Italia la Merkel oggi perderebbe. Perché, e giustamente si collega a questo collegamento che hai fatto tu, perché dice, perché... ma insomma non c'è colore, e questa impersonalità della buona amministrazione tutta la vita la preferisco. Sì, non ci sono chiacchiere sui tacchi della Merkel, i suoi avversari sono uscite anche le foto nude della Merkel, ma chi se ne frega, le foto di quando era sua intesa, non è che in Germania si giudica non esista la Merkel, no, come da noi non è che se in la Germania Sant'Anche c'ha il tacco non 14 esista il sorriso, il pettegolezzo o la Boschi 15, dai, ma su. Sì, ma dico, in Inghilterra si dimettono. Prendi mai in mano la faccia, Frankfurter Allgemein, sì, vedrai, capito, che non c'è come da noi. Noi in tutti i giornali generalisti, invece nelle pagine politiche, c'è ritualmente che tacco oggi la Boschi. È la rivoluzione mielista, è così dagli anni 90. Ma sarò libero di dire che preferisco la Frankfurter Allgemein e la Germania che ragiona sui politici in altri termini? A furia di ragionare su l'ibridazione, noi abbiamo diseducato gli italiani a credere che un politico si giudica da quello che sa fare. Ecco, è diventato da come si veste e che cazzo dice. Ma dai. Frankfurter Allgemeine. Sì. Ci vediamo domani con la divisa cani e gatti. Ciao. Magari! Centro Software, l'ERP italiano già pronto per Industry 4.0. Vi ha presentato 24 mattino.